Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, puntata di Salva Danaio dedicata alla cedolare secca e in particolare al debutto della cedolare secca nel modello 730. Cercheremo di capire quali sono le novità, lo faremo con due ospiti come sempre che ci aiuteranno. E allora comincio dal dottor Luca De Stefano, che è collegato con noi telefonicamente, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. E saluto il collega Marco Peruzzi del Sole 24 Ore, che invece è in studio con me. Grazie Marco. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E allora, prima di addentrarci nel nostro tema, vi ricordo anche i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Prima però, come sempre, andiamo a vedere che cosa sta succedendo sui mercati. Lo stiamo ripetendo ormai fin dalle prime battute dell'apertura per quel che riguarda il vecchio continente. Oggi c'è molto nervosismo sulle piazze finanziarie. Intanto la chiusura negativa per quel che riguarda l'Asia, in particolare Tokyo, ha lasciato sul terreno oltre un punto percentuale, e poi partenza negativa per i listini in apertura alle 9, e dopodiché andamento piuttosto ondivago. In questo momento per esempio Parigi guadagna 1,006%, mentre Francoforte cede un punto percentuale, Londra è più pesante, cede l'1,2%, a Piazza Affari il FTSE MIB è in flessione dello 0,75%, il FTSE All Share dello 0,84%. Alcune notizie in arrivo oggi dall'Europa. Prima di tutto, l'inflazione nell'eurozona in aprile è calata al 2,6% tendenziale dal 2,7% di marzo. Si tratta del primo calo dopo 4 mesi consecutivi di inflazione stabile al 2,7%. E poi questa mattina sono stati resi noti i dati relativi alle immatricolazioni. È in flessione tutto il mercato, è in flessione anche il gruppo Fiat, che accusa una punto flessione di oltre 10 punti percentuali. Tornando a Milano, tornando a Piazza Affari, il titolo migliore è Finmeccanica, che guadagna il 5% circa, al 5,03 in questo momento. Lo dicevamo poco fa, oggi è il giorno dell'assemblea che potrebbe decidere di dare maggiori poteri al direttore generale Alessandro Panza. E oggi il Sole 24 Ore pubblica anche delle indiscrezioni relative a un'ipotesi di ingresso della francese Thales nell'azionariato con il 10%. In evidenza anche la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che guadagna il 2,34%, Intesa San Paolo l'1,74%. Terna guadagna l'1,63%. In fondo al listino ritroviamo Monte dei Paschi di Siena, qui il calo è del 4,93% circa. Monte Paschi continua a subire forti cali, continua ad essere venduta. Tra l'altro oggi c'è stata anche una notizia relativa allo studio di un'emissione di un coco bond. Il coco bond sono obbligazioni ibride convertibili che in alcune condizioni si possono trasformare in azioni. Questo l'ha indicato l'amministratore delegato Fabrizio Viola nella conference call con gli analisti sul primo trimestre, che è il primo sotto la sua gestione. Viola ha detto che questa è un'ipotesi che si sta studiando con un confronto con la vigilanza. E ovviamente ci sono delle complessità da valutare. Giù anche Mediolanum, meno 3,89%, Pirelli c'è del 3,4%, a 2-3 punti percentuali. Continua la pressione anche sulla moneta unica, 1,2718 il cambio con il dollaro, mentre per quel che riguarda il differenziale BTP Bund in questo momento siamo a 438 punti base, in lievissimo calo. Questa mattina sono state due le aste di titoli di Stato in Europa: la Germania, che ha collocato poco più di 4 miliardi con un rendimento al minimo storico all'1,47%, la Francia ha collocato con successo tutti gli 8 miliardi di titoli di Stato con varie scadenze, anche qui tassi in calo sulle scadenze più significative a 2 e 5 anni. Questo per quel che riguarda i mercati. Noi invece adesso ci addentriamo nel nostro tema, la cedolare secca al debutto sul 7,30, la nostra scheda. L'anno scorso, per i proprietari che affittano un immobile, c'è una doppia opzione per la tassazione del canone. Alla modalità tradizionale, le aliquote IRPEF progressive basate sul reddito, cui si aggiungono altre imposte addizionali, si è affiancata infatti l'ormai famosa cedolare secca sugli affitti, soprannominata tassa piatta, proprio perché basata su un'unica aliquota forfettaria, fissata al 21% per i contratti a canone libero e al 19% per quelli a canone concordato nelle città ad alta densità abitativa. La scelta ha riguardato tutti quei contratti i cui termini di registrazione scadevano dopo il 6 aprile 2011, poiché proprio dal 7 aprile dell'anno scorso è in vigore la nuova legge che permette, esercitando questa opzione, di abbandonare il vecchio sistema. E la cedolare debutta ora anche nelle dichiarazioni dei redditi del 2012, nelle quali per la prima volta il contribuente è tenuto a indicare l'esercizio di questa opzione, precisamente nel quadro B, quello dedicato ai redditi dei fabbricati, che è stato modificato appositamente per accogliere la dichiarazione degli affitti di abitazioni e pertinenze assoggettate a questo regime di tassazione. L'opzione potrà essere indicata sia nel caso dei vecchi contratti, quelli già in corso, insomma, prima del 7 aprile 2011, sia nel caso di quelli più recenti e già registrati scegliendo la cedolare. Un'altra novità riguarda il pagamento dell'acconto della cedolare per il 2012. Per quello dell'anno scorso, i contribuenti si sono dovuti occupare in prima persona del versamento, mentre questa volta è compito del sostituto d'imposta. Vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Allora, io comincerei subito per una panoramica generale con il collega Marco Peruzzi, perché siamo proprio nel periodo caldo, quello del 7.30, quando lo devo presentare, a chi lo devo presentare, e sono cambiate un po' di scadenze negli ultimi settimane. Credo che oggi la trasmissione l'avete fatta su questo aspetto non a caso. Non a caso, diciamo che ci impegniamo su queste cose. Esattamente, no, non a caso perché? Perché il 7.30 che doveva essere presentato al proprio datore di lavoro o all'ente previdenziale nel caso di pensionato entro il 30 aprile è stato in effetti prorogato proprio oggi. Oggi è la scadenza entro cui occorre consegnare il modello 730-2012 al proprio sostituto d'imposta, cioè sostanzialmente alla propria azienda nel caso di lavoratore dipendente o al proprio ente pensionistico nel caso di pensionato. Ovvio che l'azienda deve fare l'assistenza fiscale e quindi si è pronta a ricevere tutta la documentazione. L'alternativa è quella di rivolgersi a un CAF oppure a un professionista abilitato, e per questo si ha ancora più tempo. La scadenza originaria sarebbe stata del 31 maggio, anche questo termine è stato prorogato al 20 giugno, quindi ancora abbiamo un mese e 4 giorni di tempo. Ma oggi è appunto l'ultimo giorno utile per consegnare il 730 al proprio sostituto d'imposta. Slittano così anche altri adempimenti relativi a questa presentazione, e cioè il contribuente, e questa è l'ultima cosa che dovrà fare, riceverà una copia elaborata del 730 dal proprio sostituto di imposta e il prospetto di liquidazione, quello sostanzialmente racchiude tutta la sintesi delle imposte che devono essere versate, non più entro il 31 maggio, che era la scadenza originaria, ma entro il 15 giugno. Nel caso invece di presentazione al CAF o al professionista abilitato, il termine entro cui il contribuente riceve la copia del 730 e il prospetto di liquidazione originariamente fissato al 15 giugno slitta invece al 2 luglio 2012. Perché questo rinvio? Questo slittamento a catena? Perché il 730, che pur resta il modello di dichiarazione più semplice e anche quello più gettonato, sono circa 18 milioni, mi sembra di ricordare, i contribuenti che anche l'anno scorso se ne sono avvalsi anziché utilizzare Unico, perché questo modello recepisce tutte le novità dello scorso anno. E ci ricordiamo bene che le novità dello scorso anno sono state tantissime, se ricordiamo prima il decreto sviluppo, poi la manovra estiva e quella di Ferragosto, per finire con il decreto Salva Italia. Ecco, tra le novità più rilevanti abbiamo l'IMU, di cui immagino... di cui parleremo domani, cercheremo almeno di parlarne per quanto se ne sa e per quanto riusciremo noi a raccontare l'IMU anche in relazione al 730, speriamo di riuscirci domani. Esatto, e poi appunto la cedolare secca, tutte novità che per essere bene assimilate, quindi digerite non soltanto dai contribuenti ma anche da chi poi deve fare i conteggi della dichiarazione, forse c'è stato bisogno appunto di un pochino di tempo in più. Ecco, tra le novità proprio del 730 vanno segnalate alcuni aspetti. Il fatto, tra i vantaggi, volevo dire, del 730 vanno segnalato appunto alcuni aspetti. Il primo è che il contribuente non deve sostanzialmente fare dei calcoli, poi non deve presentare nessun modello all'Agenzia delle Entrate, perché ci pensa direttamente il datore di lavoro oppure l'ente pensionistico o comunque l'intermediario CAF o professionista che sia al quale il contribuente si è rivolto. E poi l'altro vantaggio molto importante è che ottiene il rimborso delle somme eventualmente dovute direttamente in busta paga o nella rata di pensione. Ed ecco qua la novità, anche questa della cedolare secca. Per la cedolare secca. Allora, io qui volevo subito poi chiamare ovviamente anche il dottor De Stefano in causa, perché io mi auguro che anche i contribuenti abbiano capito bene che cosa bisogna fare di tutte queste novità e anche proprio della novità della cedolare secca, che già l'anno scorso era una novità e quest'anno si introduce anche nel 730. Ci sono dei quadri appositi all'interno del modello. Sì, è stato introdotto una nuova sezione, la sezione 2 del modello 730, in particolare la sezione in cui righi B11 e B12, e in questi due righi devono essere indicati gli estremi di registrazione dei contratti appunto registrati per i quali si è fatta l'opzione per la cedolare secca. Oltre a questa indicazione nuova di quest'anno, vi sono anche dei codici nuovi da inserire negli appositi righi relativi al reddito da dichiarare per la cedolare secca. In particolare la colonna 11 del modello 730 deve essere barrata se si è fatta l'opzione per la cedolare secca. Inoltre va indicato l'intero canone, cioè il 100% del canone assoggettato alla nuova imposta del 19% o del 21% nella colonna 6, quella relativa appunto ai canoni di locazione. Nel caso invece di opzione per la tassazione ordinaria va indicato solamente l'85% del canone oppure il 75% nei casi in cui l'immobile sia sito a Venezia, sì, nel centro storico e nelle isole. Le 12:35 minuti, mi riservo più avanti di fare la mia domanda sull'affitto, la dichiarazione dell'affitto al dottor De Stefani, prima però spazio alle telefonate, prima ancora spazio a un ascoltatore per rassicurarlo, la dottoressa Rosciani è semplicemente in ferie, sarà qui di nuovo con voi, salda al timone di Salvadanaio, lunedì prossimo, quindi non vi preoccupate, noi siamo solo indegne sostitute della collega Rosciani. Volevo dare subito la parola a Enzo da Firenze, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica tutto. Vi seguo tutti i giorni, sarebbe bello che Salvadanaio durasse qualche ora in più. Faremo presente a chi di dovere, ci dica tutto. Sì. Senta, una domanda veloce, perché la cedolare secca, se è una cedolare secca, deve essere messa poi di fatto anche nel 730, andando a complicare ulteriormente la già complicata dichiarazione? E se è vero, se sono vere le voci che volevano un aumento della cedolare secca dal 21 al 25% nel corso di quest'anno. Allora, signor Enzo da Firenze, sul possibile eventuale aumento se ne parlerà e ne parleremo quando ne avremo notizia più certa. Sì, si era sparsa questa voce, ma per il momento tutto resta così com'è. Io invece volevo girare la sua domanda al dottor De Stefani, perché l'ascoltatore ci chiede: ma non si complica così la vita? Forse invece in questo 7.30 si cerca di agevolarla un po' la vita ai contribuenti che pagano la cedolare, o no? Sì, allora ecco, la cedolare secca è un'imposta piatta, appunto, con un'imposta del 19, del 21%, quindi si possono avere degli sconti fiscali se la nostra aliquota IRPEF è più alta, ha un'aliquota più alta. Sì. La cedolare secca però, come tutti gli altri redditi, cioè redditi assoggettati a cedolare secca, come tutti quanti gli altri redditi, devono essere dichiarati a consuntivo. Quindi è necessario attendere la fine dell'anno per capire l'importo del canone dichiarato. Non è possibile quindi in sede di registrazione del contratto di locazione andare a pagare già il 19% o il 21%. Può succedere che durante l'anno vi sia la risoluzione del contratto, certo. Quindi non deve essere pagata, non può essere pagata preventivamente la cedolare secca, deve essere per forza pagata consuntivamente, a consuntivo, quindi nel momento in cui deve essere fatta in pratica una dichiarazione dei redditi. Sì. Al posto di farne una separata solo per quella, è stato inglobato tutto all'interno del 730 o del modello unico. Allora, invece a Marco volevo chiedere questa cosa. Quest'anno appunto avendo debuttato la cedolare nel 730, c'è anche una nuova modalità per quel che riguarda poi il pagamento degli acconti di quest'anno. Infatti tutto sommato è comunque una semplificazione, perché la vera novità è che il contribuente non deve pagare la cedolare secca. Ripetiamo, è il 21. Non la deve pagare da solo, diciamo, esatto. Così. Ha un bel aiuto, perché poi sarà l'azienda, il sostituto di imposta, che tratterrà sulla busta paga di luglio il saldo della cedolare secca 2011 e l'acconto del 2012. Quindi anche da questo punto di vista è una semplificazione. Quanto invece alla seconda domanda dell'ascoltatore, possiamo dire che si sta parlando di tutto e del contrario di tutto. È una possibilità, teniamo conto che la cedolare secca è stata introdotta soltanto l'anno scorso, quindi poi i risultati che darà li vedremo successivamente, e non c'è niente però ancora, ecco, lo rassicuriamo da questo punto di vista, non c'è niente ancora di scritto, sono soltanto rumors che si inseguono, però allo stato attuale regole sono ferme e la cedolare secca è del 21% o del 19% nel caso di canoni concordati, che sono quei particolari accordi tra contratti stipulati sulla base di accordi tra le organizzazioni in alcuni comuni che hanno delle carenze di disponibilità abitative, ma sono tantissimi, sono le principali città, Bologna, Milano e quant'altro. Allora, io invece volevo chiedere al dottor De Stefani, proprio a proposito di questo calcolo che viene fatto dal sostituto d'imposta e che quindi si occuperà poi di procedere al pagamento dell'acconto, del primo e del secondo acconto, è solo questa la via, oppure il contribuente può scegliere anche di autonomamente pagare attraverso l'F24 nelle scadenze che sono già state fissate, quindi il 18 giugno e il 30 di novembre? Sì, se sceglie il modello unico può fare direttamente i pagamenti sia del saldo che dell'acconto. Quindi se ha altri redditi, ad esempio redditi di lavoro autonomo, sì, o di impresa, è obbligato a fare il modello unico. Se non ha questi redditi e quindi rientra nelle casistiche del 730, è una sua scelta di fare il modello 730 o il modello unico. Il modello 730 consente un rimborso immediato, sì, mentre il modello unico, se siamo a credito, il rimborso avviene dopo qualche anno, certo, o comunque può essere utilizzato in compensazione nella prossima dichiarazione di redditi. Daniele dalla provincia di Pavia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica. Io volevo chiederle una domanda molto semplice. Ieri ero per registrare un contratto d'affitto all'Agenzia delle Entrate e mi hanno detto che per aderire alla cedolare secca avrei dovuto mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno al mio inquilino. Sì, okay? Sì. Io invece sono arrivato là con una raccomandata a mano, quindi firmata dall'inquilino e compilata da lui. Sì. Tutto regolare. Questi non me l'hanno accettata e esigono praticamente la cartolina della la ricevuta di ritorno della raccomandata, perché mi hanno detto che la circolare del Ministero prevede appositamente questo. E io mi chiedo, ma mi sembra un'assurdità, perché se io avessi mandato una lettera in bianco con scritto solo dei saluti, era valida. Se invece io gli porto il modulo compilato e firmato dall'inquilino, non va bene. Allora, vediamo un po' che cosa ci dice il dottor De Stefani a questo riguardo. Una piccola complicazione in più per il contribuente? Sì, perché la raccomandata deve essere spedita prima della scadenza contrattuale o annuale del contratto di locazione. Quindi è necessario che vi sia la data certa. Sì. È proprio la circolare principale, sulla cedolare secca, che è la 26 del 2011, che esclude proprio validità, non dà validità alla cedolare secca, alla raccomandata consegnata a mano, anche se ricevuta e sottoscritta dall'inquilino. Allora, Gino da Crema, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, volevo chiedere, la circolare prevede che per il rinnovo dal 2012 venga presentato il modello 69. Sì. Entro i 30 giorni di scadenza dell'annualità, cioè se non ci fosse la cedolare secca, entro i 30 giorni bisognerebbe pagare l'annualità di registro. Sì. Con la cedolare secca si presenta il modello 69 per la conferma della, sì, della cedolare. Nel caso che siano passati i 30 giorni, che succede? Cosa succede? Anche perché se non avessi pagato l'imposta di registro, quando c'è il registro avevo possibilità di avere diritto operoso. Sì. Sì, c'è o no? Allora, dottor De Stefani, che succede qui? Che tra l'altro per il 2012 appunto tutti quelli che l'anno scorso hanno pagato la cedolare secca in presenza di un contratto già in essere, appunto quest'anno dovranno presentare tra l'altro fisicamente il modello 69. È corretto, sì, quello che dico? Corretto. Bisogna andare lì di persona, giusto? Sì, sì, bisogna andare di persona all'ufficio, non è possibile effettuare un invio telematico, questo è uno dei tanti modelli che sono ancora cartacei e non telematici, come ricordo anche l'F23 che solamente recentemente è stato fatto telematicamente, però solamente tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, Entratel, ma non tramite altri strumenti telematici. Quindi ecco, è necessario andare all'agenzia e entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, ecco, presentando questo modello 69. Successivamente non è possibile effettuare questa opzione, quindi dal giorno della nuova annualità e fino alla fine del contratto è d'obbligo applicare la tassazione ordinaria IRPEF e non è più possibile effettuare l'opzione per la cedolare secca, che nel caso del nostro ascoltatore, mi pare di aver capito, sì, è partita a metà dello scorso anno in circa, sì, fino appunto alla scadenza dell'annualità. Quindi sostanzialmente non potrà applicare la cedolare secca? No, è impossibile, purtroppo no, deve applicare la tassazione ordinaria, perché c'è il termine di presentazione, sì, del modello 69, 30 giorni dalla scadenza dell'annualità. Diciamo che possiamo dire che in questo caso il ravvedimento operoso non c'è e non ci può essere, insomma. Ecco, non c'è, però c'è una norma uscita 10 giorni fa praticamente, che prevede un ravvedimento particolare nel caso in cui vi siano questi casi qua. Non è ancora stato fatta una lista da parte dell'Agenzia delle Entrate di quali sono gli adempimenti sanabili con quindi questa la casistica nuova normativa, esattamente. Si presume possa rientrare anche questa casistica. Però ancora non c'è la conferma, ecco, quindi non possiamo darla come una notizia certa. Eccoci qui le 12:46 minuti e 47 secondi. Donato da Asti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ci dica. Volevo sapere se nella cedolare secca rientra anche l'affitto di un locale commerciale. Allora, vediamo un po' se il collega Marco Peruzzi ci può dare un elenco di quelli che sono gli immobili che possono e quelli che non possono. Allora, no, questo nuovo regime riguarda soltanto gli immobili che vengono accatastati come abitazioni. Nel catasto ci sono categorie che vanno da 1 a 11 e si può assoggettare a tassazione a cedolare secca anche ovviamente le relative pertinenze. Per pertinenze intendiamo il box, sì, no, il garage, piuttosto che soffitta, cantina, esattamente, la cantina, eccetera. Quindi che cos'è questa cedolare secca? È un'imposta che riguarda soltanto le abitazioni. Le categorie catastali vanno da A1 ad A11 con esclusione delle A10, riguarda anche le pertinenze e sostituisce tutte le vecchie imposte, sì, che gravavano sull'affitto, certo, cioè c'era l'IRPEF, l'addizionale regionale, l'addizionale comunale, l'imposta di registro e l'imposta di bollo. Teniamo conto che si tratta in ogni caso di un regime che è facoltativo e che possono ed è riservato alle persone fisiche. Comunque gli, sì, immobili devono essere diversi da quelle che rientrano nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Giuseppe dalla provincia di Cremona, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. Ecco, senta, io avrei da fare una domanda. Nel senso, se io praticamente... Pronto, sì, mi sente? Sì, sì, sì, noi la sentiamo benissimo, ci dica. Ah, ok, niente. Se io praticamente ho un introito per un affitto di una casa, sì, e quindi rientro nel discorso cedolare secca. Sì. Ok, poi questo si va a sommare su un CUD, quindi un introito lavorativo, sullo stipendio, e rientra quindi nel discorso aumento percentuale di reddito, oppure una cosa a parte? Dottor De Stefani, chi meglio di lei ci può dire e dare una risposta al signor Giuseppe? Allora, ai fini IRPEF, che è la questione che presumo interessi maggiormente il nostro ascoltatore, sì, non fa cumulo, si dice così, no? Non c'è il cumulo tra il reddito della cedolare secca e il reddito di lavoro dipendente, quindi l'IRPEF pagata dal datore di lavoro è corretta e non viene modificata con il modello 730. C'è da pagare però un'imposta in più, che è appunto quella della cedolare secca, ma non vi è il famoso cumulo tra i redditi che magari mi fa saltare di scaglione, sì, IRPEF e pagare più imposte. Ricordiamo però, e questo è molto importante, dovrà essere fatto dai datori di lavoro, sì, o comunque dai CAF, dai datori commercialisti, che il 100% del canone di locazione assoggettato a cedolare secca rileva per determinare i soggetti a carico, certo, i familiari a carico, quindi i soggetti che hanno un importo inferiore a 2.800 euro. Rileva il fine delle detrazioni per i carichi di famiglia lo stesso, per le altre detrazioni generiche dell'articolo 13 del TUIR, che sono un po' particolari, e altre, quelle detrazioni per i canoni di locazione dell'abitazione principale. Quindi se ho un'abitazione e la do in affitto, devo pagare la cedolare secca, però questo reddito fa cumulo per determinare se ho diritto o meno a tutte queste detrazioni, certo, tra le quali ad esempio la detrazione per i canoni di affitto, vado ad abitare in un'altra abitazione, sì, pago dei canoni di affitto, per questi canoni di affitto ho diritto a una specifica detrazione forfettaria. Senta, dottor De Stefani, questa invece è una domanda mia. Visto che quest'anno chi fa il 730 appunto sarà poi il sostituto d'imposta a provvedere al pagamento degli acconti, per l'anno successivo la certificazione di questi acconti pagati dove la troveremo? Dove sarà registrata? Allora, verrà indicata nel CUD, che verrà consegnato entro il 28 febbraio del prossimo anno. Sì. Se si continua a fare il modello 730, basta riconsegnare il CUD, sì, al CAF, viene fatto tutto quanto in automatico. Certo. Se invece si passa al modello unico, deve essere indicata nel modello unico, negli appositi righi, questi acconti. Anche appunto, certo, se non abbiamo il modello F24 cartaceo in mano, riusciamo comunque a scomputare questi acconti pagati dal nostro datore di lavoro andando a recuperare gli importi all'interno del CUD. Perfetto. E ricordiamo che si può, che si può anche chiedere al datore di lavoro o all'INPS o all'ente previdenziale che fa i calcoli di non pagare l'acconto nel primo acconto né nel secondo acconto, oppure di pagarlo solamente in parte. Il rigo specifico è il rigo F6 del modello 730. Augusto da Bologna, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci dica. Volevo fare questa domanda. Io registro online sull'esercizio dell'Agenzia dell'Entrata, la mia scrivania, eccetera. Quindi aderisco già lì alla cedolare secca e denuncio se il canone è concordato o meno. Sì. Devo fare qualcos'altro? Io non credo, però voglio la conferma dal dottor De Stefani. Ecco, nel contratto, questa è la prima registrazione, presumo, sì, e nel contratto non deve essere indicato l'aumento ISTAT, sì, perché certo, è una condizione necessaria, poi non va fatto nessun altro tipo di registrazione. Giorgio Davarese, buongiorno, benvenuto, le chiedo di essere molto molto rapido. Un contratto di affitto che decorre dal 1° di ottobre del 2011, nel registrato e bollato prima del 1° di ottobre, nel contratto è stato inserito il locatore dichiara di avvalersi della cedolare, sì, secca di cui al decreto legislativo, eccetera. Questo può sostituire la raccomandata in quanto fatto tutto prima e portato anche a conoscenza dell'inquilino? Dottor De Stefani, si può in questo caso soprassedere sulla raccomandata? Sì, mi pare di aver capito che il contratto parte, cioè i 4 anni, sì, di locazione partono, sì, il 1° ottobre dello scorso anno. Sì, esatto. Nel contratto appunto non vi è l'indicazione dell'ISTAT, si fa opzione, si menziona, sì, nel contratto della cedolare secca, e quindi l'inquilino è a conoscenza della cedolare secca, e quindi ecco che sicuramente non vi sono problemi, non abbiamo la possibilità di applicare questa tassazione agevolata fino alla fine del contratto. E non serve, ricordiamolo, andare a rinnovarla quest'anno, perché il rinnovo, certo, vale solo per le per i contratti che erano in essere all'inizio dello scorso anno oppure in data 7/4/2011. Allora, il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, io ringrazio gli ospiti, ringrazio il dottor Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Grazie dottor De Stefani, a lei buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie, arrivederci. E grazie anche al collega Marco Peruzzi, collega del quotidiano, che ha sceso un paio di piani per venirci a trovare questa mattina. Grazie Marco. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Prima di salutarvi però io vi ricordo, anzi vi anticipo, che domani sul Sole 24 Ore parte una nuova iniziativa, un'iniziativa che si chiama Sportello. Ogni giovedì lo Sportello del Sole 24 Ore si affronterà un tema diverso ogni settimana, tra quelli più caldi per rivolgersi a ministri istituzioni, avere risposte concrete. Domani si parte con le pensioni, da oggi attiva la casella email sportellopensioni@ilsole24ore.com. Quindi verranno raccolte le domande dei lettori, le sollecitazioni formulate dai lettori, e sarà poi l'occasione per fare il punto sulla riforma delle pensioni. Domani 4 pagine dedicate a questo tema. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.